la gente ci vede, sì, ci conosce, non sa. Però se gli chiedi chi siamo, sono è sempre B-boy. Qualcosa da dire. Sono un B-boy. Sto punto affanculo sta gente. Sono un B-boy. No, aspetta, sono una zecca. Se qualcuno sono un quatto, oppure un panca bestia. Percepisco che per te sono un aliero. Qualcuno crede che sono cattivo, per altri buono, entrambi non lo sanno e quindi inventano. Costruiscono un'immagine di me che prendono, distorcono, accartocciano e sporcano. Se la passano appena possono, parlano, arricchiscono. E mentre i giorni passano l'immagine cambia e sono una canaglia. Dopo un minuto sono il sole che t'abbaglia. Chi dice vado via da qua perché qua è una merda. Io resto sempre qua così la storia è meno orrenda. L'ultimo rintocco mi farà volare via. Intanto resto qua e cerco di fare pulizia. Qua non va eppure resto ancora qua. Si sa ciò nonostante resto. Qua, resto qua, sì, nella mia città natale, dove d'obbligo pigliare calci in culo. Meno male, noi d'Aprilia siamo famosi davvero. Abbiamo costruito un impero su coca e furti di stereo. Qualcosa che fa onore alla nostra cittadinanza. Gente in piazza, atteggiamenti di sudditanza. Mentale, ma è grave doversi risvegliare, vedere il proprio nome su pagine di giornale. Morale, quale morale? Cazzo è vero, il giorno dopo rifarò lo stesso per intero. Pensiero stupendo, con questo cosa intendo. È inutile che mandi guardie, tanto poi la vendono. Giovani in Montana crescono, li pescano e dopo due giorni con la condizionale escono. Qua non va, eppure resto ancora qua. Si sa, ciò nonostante resto qua. Resto qua perché ho vissuto qua, nonostante circondato da merda vera che si alterna intorno a me. Già, già da quando metto piede fuori casa e sfida. È tutt'altro che una passeggiata, vivere la mia vita. Qua, qua, non va, non va. Quindi rimbocco la manica. Perché c'è tanto da sudare, scappare non aiuta, lavorare per cambiare. Resto qui a pensare a come fare a far capire a tutti. Ma già da qualche annetto mo raccolgo i miei frutti. Non a caso, chirurgo del cervello corroso. MC1 lotto per un futuro più luminoso. Qua non va, eppure resto ancora qua. Si sa, ciò nonostante resto. Facile dire, molto voglio andare via al più presto, sto posto è una merda. Ma il bello, no, ci sa, il bello è che, lasciatemi dire, il bello è restarci, restarci, cambiarlo, no? Capito? Siamo gli unici che possono veramente farlo.